Ci sono tanti messaggi veramente importanti e quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta, faccio fatica a identificare una sola cosa. Si possono vedere però almeno tre elementi che sono importanti. Il primo è che questo gruppo di scienziati coordinati dall'ONU dice che è ormai inequivocabile il fatto che sono le attività umane a cambiare il clima del pianeta e che se non si interviene rapidamente ci sono potenzialmente dei danni molto molto pesanti per le attività umane e anche per gli ecosistemi. Questo è un tema su cui in passato si è dibattuto, ancora adesso abbiamo su qualche giornale chi nega, chi dice che non è vero, che tutto sommato non è così grave. In realtà l'evidenza scientifica portata da questo rapporto è veramente monumentale, cioè ci sono una quantità di informazioni, di dati. Ricordiamo che questo è il rapporto di sintesi che riassume tre volumi dei tre gruppi lavoro, tre volumi di 1000 pagine pubblicati tra il 2022 e il 2023. Quindi questo qui è il distillato. Là ci sono tutte le evidenze scientifiche, quindi leggere la sintesi capisce ancora meglio, insomma, veramente quante cose ormai sappiamo con sostanziale certezza, ecco, con margini di incertezza molto molto bassi. Quindi questa è la prima cosa, è veramente la situazione grave. Il rapporto anche entra nel merito di incertezze che abbiamo, che sono però magari su quanto le cose potrebbero essere più gravi di quello che pensiamo. Ecco, noi non sappiamo ancora con precisione cosa potrebbe succedere se il mondo si scalda di 2 o 3 gradi. Ossia, l'incertezza non è nostra amica. Il fatto che non lo sappiamo potrebbe essere pericoloso, perché potrebbe essere, diciamo, più pericoloso di quello che fino adesso pensavamo. Quindi il rapporto ci dice che abbiamo sufficienti motivi per agire, visto già la gravità della situazione. Poi il rapporto ci dice una seconda cosa, è che l'adattamento al cambiamento climatico, ossia cercare di limitare i danni preparandosi al cambiamento climatico che già c'è e che ci sarà ancora un po' di più nei prossimi decenni, serve, è utile, conviene, ma non è sufficiente. Quindi se noi possiamo adattarci a un altro mezzo grado a livello globale, a un altro grado a livello italiano, sappiamo che l'Italia si scalda più del doppio della media rispetto alla media globale, però questo adattamento va messo comunque in campo, ma non è sufficiente a evitare tutti gli impatti. E poi se le temperature crescono molto, non è, a un certo punto il potenziale di adattamento su quello che ci si può adattare è molto poco, quindi bisogna assolutamente fare la terza cosa, che è mitigare, quindi ridurre le emissioni. E qui il rapporto dice che molte cose si possono fare e in questo rapporto per la prima volta sono valutati i pro e i contro, i costi, i benefici di scenari di riduzione delle emissioni molto drastiche e molto ambiziose. Quindi ci dice che di fatto, volendo, potremmo limitare le temperature non ai livelli attuali, perché comunque per via dell'inerzia del sistema climatico un altro mezzo grado a livello globale più o meno ce l'avremo. Certo, possiamo stare sotto i 2 gradi, ben sotto i 2 gradi, come vuole l'accordo di Parigi, però servono riduzioni delle emissioni, che il rapporto dice rapide, immediate, ecco, devono essere da subito, devono essere rapide e sostenute, quindi usa questi tre aggettivi, quindi rapide, veloci, che devono continuare nel tempo, però devono partire subito. Sempre rimanendo sull'ultimo report, all'interno del documento si fa uso anche di termini e di concetti quali quello delle perdite, dei danni, delle categorie più vulnerabili, della giustizia climatica e via dicendo. Quindi lei pensa che il respiro, il taglio dei rapporti dell'IPCC sia cambiato negli anni, o cioè sono diventati più politici, tra virgolette, recentemente, o lo sono sempre stati? Ma i rapporti sono sempre una sintesi tecnico-scientifica, cioè sommare decisori politici che è rivolto a decisori politici, ma dubito che decisori politici leggeranno 40 pagine, poi scritti anche in inglese, quindi sono comunque sempre di altissimo livello scientifico. Poi certo, rispetto al passato in cui si discuteva magari di più della climatologia, ormai i giochi sono fatti dal punto di vista della climatologia, adesso i rapporti parlano soprattutto di come si può agire, quindi inevitabilmente per come si può agire ci sono anche delle considerazioni di tipo politico, però di fatto sono sintesi appunto di quello che è il lavoro di scienziati, hanno conseguenze sulla politica, però ricordiamo che non sono prescrittivi, cioè questi rapporti degli scienziati non dicono bisogna ridurre le emissioni, quello che dicono è se non le riduci arrivi qua, se le riduci arrivi qua e c'hai questi o quegli altri costi e benefici, quindi sono informativi per la politica, ma non dicono che bisogna ridurre le emissioni nel rapporto IPCC, perché non spetta alla scienza dire quello che bisogna fare, la scienza ti dice quali sono i pro e i contro, le opzioni, quindi se tu non lo fai vai incontro a questi danni e a questi costi. A tal proposito, proprio per quello che ha appena detto, penso che si possa comunque affermare che negli ultimi anni in qualche modo la comunità scientifica, non solo quella della scienza del clima, ma della scienza in generale, abbia abbastanza visto crescere la sua autorevolezza agli occhi, diciamo, dell'opinione dell'opinione pubblica, anche delle classi politiche, a volte con degenerazioni personalistiche di alcune figure, possiamo dire, altre invece con più lucidità e rigore. Non so, basta pensare al caso del Covid e dei virologi da televisione. E via dicendo, ecco, però sul clima ho l'impressione che invece non si possa ancora dire forse che dati, temi o esperti abbiano la stessa influenza politica, se non superficialmente, posto anche che, come dice lei, danno delle indicazioni ma non possono essere delle prescrizioni. Ma al di là di questo, come mai a suo avviso il clima, a differenza di altre categorie della scienza, non ha la stessa influenza sulla politica? Ma di fatto è perché comunque porta delle, quelle che potremmo definire delle verità scomode. Quindi se si parla dei buchi neri, dei neutrini, il politico l'ascolta ma non ha questo non ha delle implicazioni dirette sulle azioni politiche. Invece quando la scienza dice che servono riduzioni delle emissioni immediate, rapide, sostenute, è chiaro che il politico si sente chiamato in causa, quindi se non vuole fare quelle azioni per tanti motivi su cui potremmo discutere, cerca allora di non ascoltare la scienza, si inventa che magari gli scienziati sono divisi, che c'è ancora tanta incertezza e quindi di fatto evita di confrontarsi con quello che è il risultato della comunità scientifica. Quindi questo perché ha dei motivi per non voler affrontare le conseguenze della conoscenza. Questo è spiegabile, insomma ci sono tanti rapporti che sono stati pubblicati che hanno dimostrato l'interferenza anche del petrolio, delle lobby dell'oil and gas sulla politica, tramite finanziamenti, tramite lobby di pressione. Poi a volte semplicemente alla politica non interessano azioni e temi che riguardano comunque non l'immediato, cioè rispetto ad altri temi ambientali il cambiamento climatico riguarda anche molto le future generazioni. Le temperature del 2050 difficilmente interessano un politico ottantenne o anche settantenne, quindi per che motivo ha di giocarsi la sua carriera politica su qualcosa che riguarda chi verrà dopo di lui? Ecco, questo è un tema che sul cambiamento climatico c'è. Possiamo dire che la visione a lungo termine di cui necessita l'azione climatica è abbastanza inconciliabile con i tempi della politica? Sì, c'è un problema, c'è un conflitto insomma fra una politica che è abituata ad azioni sul brevissimo periodo, una parte della politica, poi certo è sempre sbagliato generalizzare perché invece ci sono politici lungimiranti che hanno uno sguardo, una visione più globale, anche più avanzata a livello temporale. Certo, se uno cerca il consenso con la battuta su Twitter o su Facebook che dura una settimana, non ha motivo per impegnarsi di riduzioni delle emissioni i cui effetti non si vedono se non dopo parecchi anni. Lei si è detto più volte critico rispetto al pessimismo cosmico di una certa narrazione catastrofistica che sta attorno ai cambiamenti climatici ed è arrivato anche a definirsi in un qualche modo uno scienziato ottimista. Ecco, nel 2023, anno dopo anno e anche alla luce dell'ultimo report, ha ancora senso definirsi così? Cioè ottimisti? C'è speranza? Ma adesso non so quando mi sono definito ottimismo, non mi sembra, però di fatto sicuramente se c'è un catastrofismo, il tema della catastrofe c'è nel cambiamento climatico, ci sono degli danni potenziali molto molto rilevanti, però non è la catastrofe di film di Hollywood, cioè non è un danno che è cataclismatico nel breve periodo che può portare alla distruzione di tutta la vita sul pianeta per effetto del cambiamento climatico. Quindi il cambiamento climatico è catastrofico a modo suo e lo è in modo diverso rispetto a quello che a volte i mass media fanno sembrare. A volte esagerano i danni nel brevissimo termine, invece il cambiamento climatico è un problema che rimarrà sicuramente per decenni e per secoli, quindi questa dimensione catastrofica del cambiamento climatico non è quella che piace ai giornali, per dire. Forse, non so se questo può essere ottimismo, però io direi oggi sono più possibilista, ossia la cosa importante è che si vede che ci sono delle azioni possibili, quindi non è che ormai non c'è più niente da fare come a volte si sente dire, e ricordiamo che la narrazione della disperazione è funzionale a chi vuole impedire le politiche sul clima, ossia gli inattivisti, quelli che cercano di evitare le politiche sul clima, oggi una cosa che dicono, ma sì, ormai è troppo tardi, non c'è più niente da fare. Ecco, questa è una narrazione pericolosa perché porta all'inazione. In realtà le azioni degli esseri umani possono fare la differenza in quello che sarà il clima del futuro. Certo, non potranno evitare tutti i cambiamenti climatici, ma c'è differenza fra agire in modo rapido, sostenuto e non fare nulla.